Dove si misurano? Dove si misurano i rapporti di forza fra le diverse anime del paese? Dove si scrivono e si riscrivono le regole del nostro consorzio civile? Dove, mi domando ancora, vengono scolpiti nella coscienza dei cittadini i criteri per giudicare del giusto e dell'ingiusto, del buono e del cattivo, del bello e del brutto, del conveniente e dello sconveniente, del sano e del malato? Dove si è indotti a credere che possa esserci in gioco la guerra civile o la pace sociale, e dove ogni volta si decide per la pace sociale? A Sanremo. Sanremo non inteso topologicamente, ma Sanremo come ontologia dello spirito, dove lo Stato si transustanzia nelle specie eucaristiche di Pippo Baudo. Al Festival di Sanremo partecipa, fra gli altri, un tal Alessandro Safina, uno che canta del perduto amore come se al governo non ci fosse Fini ma Almirante, di cui alla presentazione sul palco la vallettizzata di turno non ha esitato a dire che assomiglia a George Clooney. E uno. Di Fabrizio Gandini, GIP, credo giudice per le indagini preliminari, cui toccherà valutare le conclusioni del pubblico ministero sul caso della morte del piccolo Samuele a Cogne, di questo GIP sappiamo già tutto: l'età, la residenza, dove è nato e vissuto, dove ha studiato, che tesi di laurea ha sostenuto, il voto che si è preso, l'ancor breve carriera, quando si fa o non si fa la barba, le sfumature dei suoi capelli, i suoi sigari preferiti. I media non ci negano nulla. Sappiamo anche, per testimonianza delle segretarie e delle conoscenti, che nel suo sguardo si cela una vaga somiglianza con l'attore George Clooney. E due. Mi bastano. Questo Clooney, kentuckiano del 1961, ha debuttato nel cinema nell'87 interpretando un film di ideologia botanica inconsueta intitolato Il ritorno dei pomodori assassini. Ma ha cominciato a suscitare entusiasmi più tardi, nel 94, allorché nel camice del pediatra dottor Ross infrangeva cuori femminili nelle affollate corsie di ER, la serie di telefilm scritta da Michael Crichton per Spielberg. Il fatto che Pino Farinotti, nel suo dizionario degli attori, affermi che Clooney abbia sfondato nel cinema grazie al suo fascino alla Cary Grant, in apparenza complica il mio problema, ma in realtà lo semplifica. Perché? Andiamo avanti in grazia di un sistema analogico che sopperisce ad ogni accenno di discontinuità. Il successo degli eroi popolari è decretato in base alla somiglianza a modelli prestabiliti, alla stessa stregua con cui il successo è decretato ad una teoria scientifica tanto più facilmente quanto più essa non turba il sapere precedentemente dato per acquisito. Nessuno è bravo, nessuno è bello o buono semplicemente in quanto tale e per quel che fa, ma per quel che somiglia ad un altro la cui bravura, bellezza o bontà è già iscritta nel paradigma indiscutibile di ciò che viene assiduamente coltivata come mente collettiva. Che quest'altro, questo altro da sé imposto, un altro da sé di misera trascendenza, perché non più separato da noi tramite un diaframma celeste, ma più banalmente da uno schermo televisivo, che quest'altro non possa rimanere sempre uguale, tetragono come il metro di platino depositato negli archivi di Francia il 22 giugno del 1799, quattro messi d'oro dell'anno settimo, è legge del mercato capitalistico che non possa rimanere sempre uguale. Profitto esige progresso, ovvero quella indefessa variazione delle merci che toglie da una parte, sempre la stessa, chi non ha, e aggiunge dall'altra, sempre la stessa, chi ha già. È così che il cantante Neo Littorio e il giudice per le indagini preliminari di turno vengono inseriti da autorità nella gerarchia dei valori estetici di corso sociale, perché assomigliano a George Clooney. Ed è stato così che George Clooney ha potuto assurgere alla paradigmazione di sé, perché assomigliava a Cary Grant o a chi per lui. La somiglianza come risultato di un lavoro sociale, tuttavia, si rivela un'obbedienza. L'uguale e il diverso dipendono pur sempre da nostre operazioni mentali. A decidere del giudizio non sono le cose in sé messe a confronto, ma il criterio adottato. Con tutta serenità potrei confessarvi che non me ne ero mai accorto, ma ora, guardandolo con più attenzione, vedo nell'oliva qui di fronte proprio un che di George Clooney. Si tratta pur sempre di decidere cosa tenere e cosa scartare, e se qualcuno lo decide per me, se qualcuno lo decide per me, se me lo dice e ridice tutti i santi giorni, se mi condisce ciò che vedo prima ancora di vederlo, finisce che quelle operazioni mentali mi diventano quasi obbligatorie, imposte, necessarie alla sopravvivenza stessa, costituita dallo scambio con gli altri individui della società che perentoriamente voglio condividere. Che un cantante sia pur neolittorio, possa trovarsi gravato di un giudizio estetico, facendo egli parte del consorzio spettacolare dell'umanità obbediente, è in fin dei conti comprensibile, quasi ovvio. Che nella medesima pietosa situazione si venga a trovare un giudice, lo è un po' meno. L'estetica del giudice deriva dalla mercificazione dell'informazione e dalla conseguente spettacolarizzazione delle più diverse funzioni attribuibili alle istituzioni sociali. Il giudice, pertanto, finisce nel calderone degli eroi popolari, con cantanti, attori, calciatori, giornalisti e ministri del culto, prelati e scienziati. Va da sé che la tentazione sia in agguato. Un giudice bello come George Clooney, come minimo, se non altro per dimostrare urbi e torbi che lui non è soltanto bello come George Clooney, prima o poi concederà, e nel verbo già si intravede tutto il suo malincuore, concederà un'intervista. Un'intervista che a qualsiasi cosa dica potrà un giorno rivoltargliesi contro e costituire prova sufficiente perché un altro giudice, niente affatto somigliante a George Clooney, perché un altro giudice chieda l'annullamento dei suoi atti processuali. L'esperienza di questi anni ci ha dimostrato che, esaltandosi nella categoria sovrastorica del giudice corrotto, la figura particolare del giudice parlante, anzi del giudice straparlante, da quell'insieme di compromessi fra potenti che chiamiamo giustizia, non ce ne viene affatto maggiori gratificazioni. Così come qualsiasi dichiarazione emessa dal giudice in materia di ciò che è chiamato a giudicare non può che condizionarne l'intero processo, così il giudizio preventivo, altrimenti detto il pregiudizio, non può che condizionare lo svolgersi degli eventi cui si riferisce. Il giornalista Ferrara, annunciando uova marce e ortaggi addosso a Benigni, gli ha servito su un piatto d'argento l'apoteosi di Sanremo. Racconta Svetonio come una congiura di palazzo, imbastita da moglie e parenti vari, riuscì a liberarsi dell'imperatore Domiziano il 18 settembre dell'anno 96. Allora Stefano, che era il procuratore della sorella di Domiziano, che si chiamava Domitilla, Stefano un giorno si presentò a palazzo con un braccio fasciato, lamentando una malattia. Disse che avrebbe dovuto tenerlo così per un bel po', e così fece, fino a che nessuno ci fece più caso. Una sera temuta in particolar modo dall'imperatore, perché l'astrologo aveva previsto disgrazie e perché l'imperatore era piuttosto superstizioso, una sera Stefano chiede di poter parlare a tu per tu con Domiziano per denunciare, ebbene sì, l'astrologo aveva ragione, per denunciare una congiura in atto. Domiziano ci casca e lo fa accomodare in camera sua, dove le bende si rivelano finalmente per quel che sono, non profilassi ma nascondiglio per un coltellaccio affilatissimo. Stefano colpirà per primo, ma poi riuscirà ad aprire la porta della camera imperiale a tutti gli altri congiurati, perché come nell'Oriente Express di Agatha Christie, insomma, si potessero prendere tutti la loro dose di buona soddisfazione. Non ricordo che imperatore seguì, ma di una cosa sono certo: che nessuno gli si sarebbe presentato innanzi più con un braccio fasciato. Fra le soluzioni più idonee a liberarsi dell'odiato nemico, quella di sicuro sarebbe stata da escludere per un bel pezzo. Ferrara se lo ricorderà quando vorrà liberarsi di Benigni, sempre che da oggi voglia ancora liberarsene. E altri faranno bene a ricordarsene, allorché vorranno disfarsi di qualcuno. L'assassino che avvisa l'assassinato 9 volte su 10 non sa come assassinarlo e spera in un suicidio, e a volte funziona.